con Vanessa Roghi, autrice del libro Piccola città, una storia comune di eroina, uscito da pochi giorni e che tra le tante presentazioni sarà a Roma a Più Libri, Più Liberi domenica 9 dicembre. Vanessa, ben trovata. Ci Grazie, ben trovati a voi, grazie. presenti questo lavoro? Allora, questo libro è un libro, diciamo, abbastanza ibrido, nel senso che è una ricerca storica sulla storia della diffusione dell'eroina in Italia e della definizione della figura del tossicodipendente, quindi insomma, una storia culturale, diciamo, di questa definizione in un certo senso, che però si alterna a una storia autobiografica perché anche la storia di mio padre, che per un periodo della sua vita è stato eroinomane. E quindi ho cercato di prendere la sua storia, che però è anche la storia di tanti in tante città d'Italia, soprattutto appunto in provincia, e di farla diventare, per usare una parola, un correlativo oggettivo, diciamo, della storia di tanti. E niente, questo è il libro. Da dove è partito tutto? È partito da Grosseto, il libro si chiama Piccola città perché la storia inizia lì e non è solo una partenza geografica, è anche una partenza proprio metodologica. Io ho la fortuna, diciamo, di avere questo antecedente eccezionale che è stato Luciano Bianciardi, che fin dagli anni 50 ha raccontato la vita della provincia come un punto di osservazione prezioso di quello che succedeva nel paese in generale. Ora, per un caso incredibile, appunto, volevamo parlare della stessa città e quindi tutto è partito da Grosseto, non solo quindi da un punto di vista proprio meramente geografico, ma anche da un punto di vista metodologico, perché per me la lezione del lavoro culturale di Bianciardi è una lezione fondamentale. Partendo dalla ricerca più generale che hai fatto, quale realtà emerge? Intanto emerge una realtà, scusami, molto scarsa di riferimenti bibliografici di tipo storico, per cui ho dovuto fare i conti innanzitutto con una mancanza di altri studi ai quali poter attingere, insomma, perché comunque questo mi avrebbe molto aiutato. È come se per certi versi certe cose le vedessi io per la prima volta nel mio ambito, che è quello appunto degli storici, per cui non so, i grandi casi di eroina degli anni 50, il dibattito sulla legge del 54, che è la prima legge dell'Italia repubblicana sulle tossicodipendenze, la definizione appunto della figura del tossicodipendente che cambia ovviamente dagli anni 50 agli anni 60, ma che già esisteva negli anni 50, l'invenzione del capellone, l'assimilazione del legame appunto tra droga e politica, queste sono tutte cose insomma che io ho trovato e ho cercato di raccontare. E poi quello che diciamo, ho trovato è stata invece, rispetto a quello che non c'era, invece quello che c'era erano una serie di interpretazioni a mio parere sclerotizzate su alcuni punti di vista che possiamo definire il punto di vista diciamo, criminale, insomma della storia criminale, no? La storia della droga come una questione appunto legata alla malavita che tutti conosciamo, una questione insomma così di mero degrado, anche nella sua forma più poetica, penso a Caligari, a chi ha raccontato i tossici come uno spaccato, no, pasoliniano di società, e poi invece lo stereotipo, a mio parere più dannoso, che è quello lì delle vittime eterodirette, che è quello più persistente, perché in qualche modo racconta la grande tragedia, diciamo, dell'eroina in Italia degli anni 70 e 70 come completamente eterodiretta dai servizi segreti, la CIA, insomma, un grande vecchio che ha appunto volontariamente ha distrutto una o due generazioni attraverso le sostanze. Ecco, questo mi sembra che insomma siamo arrivati a un punto. Cioè, si può mettere un punto, diciamo, a questo tipo di interpretazioni. Sì. Oh, almeno all'inizio è stata una scelta dettata da curiosità, con dei riferimenti anche relativi al mondo musicale del rock oltreoceano, una scelta di ribellione e per certi versi di libertà. Sì, beh, certo, la questione della controcultura è determinante nell'assunzione di ogni sostanza. Poi c'è stata la questione anche dell'inconsapevolezza, no? Anche se, voglio dire, la scimmia sulla schiena è del 61 in Italia e descrive già due cause ed effetti, insomma. Però effettivamente quello che manca negli anni 70 è questo Blumi, Guido Blumi, il sociologo che più di tutti racconta l'eroina e la sua diffusione, è una reale consapevolezza delle conseguenze, per cui chi inizia a morire effettivamente è abbastanza ignaro. Devo dire però che neanche la consapevolezza aiuta, questo è un'altra questione sulla quale è interessante soffermarsi, nel senso che comunque negli anni 80 non è che si smette, non si smette certo dopo l'avvio, o meglio l'arrivo, il manifestarsi dell'HIV, l'AIDS, no? Come si diceva allora. Quindi ci sono va varie fasi, ma tutte quante io sono molto d'accordo con quello che dice Achille Saletti, che è l'attuale responsabile di Saman, che è la comunità fondata da Mauro Rossagno. Lui dice che nelle sostanze c'è una fortissima dimensione di autocura. Domandarsi che cosa stanno curando le persone che diventano tossicodipendenti è forse la prima domanda da farsi. Resta il fatto che l'eroina in Italia dalla fine degli anni 70 e per tutti gli anni 80 ha falcidiato una bella fetta di generazione, di quegli anni. Sì, però non è che ha smesso, No. insomma, nel senso che il picco dei morti per overdose in Italia è del 1996, questo non si dice mai, non si dice mai che oggi ci sono circa 200 overdosi all'anno, che la regione più colpita non è, come si può pensare, una regione che ne so, un'area degradata del meridione, ma è la civilissima Umbria. Insomma, voglio dire, veramente secondo me questo è uno dei temi sui quali ci sono da smontare decine di luoghi comuni. I fast, nell'ultimo anno abbiamo visto almeno 5 ragazzine di 16 anni morte per overdose. Insomma, quella generazione è stata falcidiata, ma non è che appunto si è mai smesso di morire purtroppo per questa cosa. Ecco, come spieghi questa recrudescenza degli ultimi anni? Ma io non credo che sia una recrudescenza, nel senso che l'eroina non è mai scomparsa. Il punto sono due questioni. Intanto le modalità di assunzione, per cui è molto più diffusa un'assunzione appunto che non è quella del lago in vena, ma appunto del fumo e vabbè, quindi chiaramente il rischio di overdose è ridotto. Dall'altra parte c'è una grandissima trasformazione dello spaccio, che è quella cosa che rende meno visibile il fenomeno, nel senso che non ci sono più i quartieri, ci sono ancora, ma la forma principale non è quella del quartiere malfamato dove vai a cercare la roba. Dopo l'invenzione dei cellulari, banalmente ti viene portata a casa o la vai a prendere veramente come la pizza. E questa è la seconda cosa fondamentale. La terza cosa fondamentale è la grande quantità di sostanze non illegali che possono essere usate comunque insomma, sulle quali si possono creare delle dipendenze. Per cui questo grande mix che tiene un confine molto labile, la tossicodipendenza da, come dire, un atteggiamento farmacologico, rende il fenomeno molto più difficile da raccontare e molto più inafferrabile, ma non credo, cioè comunque la recrudescenza è una trasformazione, per cui noi adesso certe cose iniziamo a rivederle, ma veramente non si è mai smesso di stare in mezzo a tutto questo. Quando tocchi la nota autobiografica, che tenore di scrittura hai scelto? Come io ho riportato nell'introduzione al libro una frase di Michele Mari che dice che ci sono dei movimenti ai quali bisogna chiedere aiuto alla letteratura. Ecco, io non sono una scrittrice, però devo ammettere che ho proprio chiesto aiuto alla letteratura per raccontare veramente gli interstizi di una storia che non poteva essere raccontata se non in modo narrativo. Quindi appunto io ho proprio cercato di alternare anche come scrittura una scrittura più letteraria ad una scrittura invece più storiografica di tipo tradizionale. Sul risultato ovviamente io non mi esprimo, insomma, spero che lo Certo. faccia qualcun altro. In chiusura, Vanessa, ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora intanto vi invito tutti quanti domenica 9 dicembre alla Nuvola alle 6 dove presenterò a Più Libri Più Liberi il libro Piccola Città con Giancarlo De Cataldo. E poi c'è una pagina Facebook, di piccola città nella quale mi piacerebbe continuare a raccogliere storie e basta così. Bene, allora i riferimenti ce li hai dati, anche l'appuntamento. Ricordiamo il libro Piccola città, una storia comune di eroina. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Vanessa Roghi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Va bene, alla prossima e grazie, a presto. Ciao. Ciao.